Radio 3 Lezioni di musica. Giovanni Bietti. La missa Pape Marcelli di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Una nuova coppia di lezioni di musica dedicate al Cinquecento. Abbiamo cominciato l'esplorazione la scorsa settimana con la musica di Josquin des Prez, che esemplificava un po' il grandissimo fiorire di grandi musicisti fiamminghi fra la fine del 400 e l'inizio del 500. Oggi siamo invece verso la metà del secolo e parliamo di quello che è probabilmente il più famoso musicista del 500 in assoluto, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Musicista che nasce nel 1525, probabilmente a Palestrina, altrimenti potrebbe essere nato anche a Roma, muore nel 1594. Copre quindi quasi interamente la seconda metà del secolo. Musicista che, a differenza di molti suoi colleghi, non si mosse mai, restò sempre a Roma. Lavorò come maestro di cappella, come cantore, nelle chiese più importanti di Roma, in particolare a San Giovanni in Laterano, a Santa Maria Maggiore, a San Pietro nella Cappella Giulia, e lavorò anche nella Sistina per un certo periodo. Vi dicevo, senza dubbio, il più celebre musicista del Cinquecento e soprattutto, fra tutti i musicisti di questo periodo, è quello la cui fama durò più a lungo. In effetti, nella storia della musica, il fenomeno Palestrina è un fenomeno unico. La ricezione della musica palestrinana è assolutamente unica. Voi pensate che la musica di Giovanni Pierluigi da Palestrina non ha mai smesso di essere eseguita da quando è stata composta, dal Cinquecento. E direi di più, non solo non ha mai smesso di essere eseguita, ma da sempre ha costituito il modello assoluto della musica sacra. Pensate che quando Beethoven scrive la Missa Solemnis, per prepararsi in quel periodo, intorno al 1817-18, si mette a studiare Palestrina. Quindi il consenso che questo musicista ha avuto nel corso della storia della musica è quasi unico. C'è stata qualche eccezione, naturalmente. Per esempio, Hector Berlioz detestava la musica di Palestrina, non la capiva. Quando venne a Roma a cercare di sentirla, dice: ma come, sono tutti accordi uguali, dov'è qui la fantasia? Ma questa è l'eccezione che conferma la regola. Bene, gran parte di questa fama assolutamente unica e straordinaria dipende proprio dal brano di cui parliamo oggi, la Missa Pape Marcelli, Messa del Papa Marcello, un brano che viene pubblicato nel 1567 nel secondo libro di messe di Palestrina. Probabilmente viene composta nei primi anni 60 del secolo, anni importantissimi. Perché? Dobbiamo fare una piccola digressione e una importante contestualizzazione. Sono gli anni del Concilio di Trento, il famoso Concilio di Trento che comincia addirittura nel 1545 e finisce nel 1563. Il Concilio di Trento in cui praticamente si delineano le strategie della Controriforma. Ebbene, voi immaginate che c'è una leggenda, sappiamo che non è esattamente così, però insomma la voce è insistente nel corso della storia della musica, viene continuamente citata dagli studiosi, dai musicisti, a cominciare dall'inizio del Seicento. La leggenda dice che Palestrina avrebbe salvato la musica sacra dall'abolizione che doveva essere per l'appunto sancita dal Concilio di Trento. Perché? Perché attraverso questa messa Palestrina dimostra che non c'è bisogno degli artifici, gli artifici dei fiamminghi, pensate ai canoni di Josquin des Prez che abbiamo sentito la settimana scorsa, per cantare le lodi di Dio. In effetti in questo periodo, intorno alla metà del Cinquecento, negli ambienti romani ecclesiastici ci sono moltissime polemiche contro la polifonia, contro la artificiosità della scrittura polifonica, e soprattutto quello che dicono molti teologi è: questo impedisce l'intellegibilità del testo. Il fatto di usare i canoni, il fatto di sovrapporre le voci, le inversioni, tutti questi complessi artifici finiscono per non rendere più comprensibile il testo. E a questo aggiungiamo che naturalmente c'era un altro aspetto contro il quale si scagliavano questi severi censori della musica sacra, cioè il fatto che spesso in una composizione sacra c'erano degli elementi profani, c'era un cantus firmus, una melodia di base che poteva essere una melodia profana, popolare. Palestrina stesso scriverà delle messe sull'Homme Armé, esattamente come Josquin. Abbiamo parlato della fortissima tradizione di questa melodia. Ecco, tutti questi aspetti sono condannati dai teorici del tempo, al punto che pare che effettivamente il Concilio di Trento avesse intenzione di bandire o perlomeno di stabilire dei criteri precisi attraverso i quali si doveva scrivere musica sacra. Non abbiamo nessuna prova che Palestrina abbia effettivamente risposto a un invito del Concilio di Trento, ma sicuramente il Papa a cui è dedicata questa messa, Papa Marcello, che peraltro ha un periodo di pontificato brevissimo, soltanto poche settimane, precedenti tra l'altro nel 1555 più o meno, sicuramente Papa Marcello ad un certo punto aveva chiesto ai cantori di riunirsi e gli aveva chiesto di scrivere in particolare la musica per la Settimana Santa in maniera differente. Bene, quello che hanno sempre notato tutti gli studiosi è che in alcune sezioni della messa di Palestrina la scrittura è più decisamente omoritmica. Omoritmica è un termine che vuol dire essenzialmente che le voci cantano insieme con lo stesso ritmo, quindi non si inseguono, non si sfasano, ma tutte le voci hanno lo stesso ritmo. L'esempio, questo è l'inizio del Gloria, per esempio. Che sembrano quasi degli accordi, in realtà c'è una scrittura contrappuntistica e poi appunto continua. Questa scrittura omoritmica che naturalmente permette, qui le voci cantano et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, questi piccoli frammenti che vi ho fatto sentire, è proprio l'inizio del Gloria, il Gloria viene intonato dal celebrante, quindi il musicista non lo mette in musica, dopodiché la versione polifonica della messa comincia dal et in terra pax, e lo stesso succede anche con il Credo. Palestrina quindi, soprattutto nel Gloria e nel Credo, usa in questa messa una scrittura prevalentemente omoritmica. Queste sono le due sezioni della messa in cui il testo è più articolato. Pensate, c'è il Kyrie, le parole sono Kyrie eleison, Christe eleison e Kyrie eleison, di nuovo pochissime parole. In questo caso ovviamente Palestrina usa uno stile polifonico. L'Agnus Dei è anche testo molto semplice, molto breve, semplicissimo. Sanctus, Osanna, Benedictus sono testi più brevi, ma il Gloria e il Credo sono invece le parti in cui il testo è più articolato, in cui c'è più bisogno di comprendere le parole. Voi pensate che i protestanti il Credo non lo recitano proprio. Cioè alcuni dei contenuti teologici del Credo sono rifiutati dalla Riforma. Quindi ovviamente proprio questa sezione, il Credo, è una sezione essenziale nella messa. Ma io direi che smetto di parlare per un attimo, ci sentiamo l'inizio del Gloria della Missa Papa Marcelli di Palestrina, poi studiamo un po', vi faccio un po' sentire il modo in cui Palestrina organizza questo testo, perché non si limita semplicemente a costruire questa scrittura omoritmica e accordale, ma alterna diverse sezioni, le diverse frasi fra le voci, con un effetto che purtroppo in disco non si riesce a godere, ma un effetto di alternanza, di antifona, di continuo scavo nello spazio sonoro veramente entusiasmante. Questo è l'inizio del Gloria. Ed ecco il coro. Thank you. volevo... Ci fermiamo a questo punto per una ragione precisa. Il primo momento di questo brano in cui tutte e sei le voci usate nella Missa Pape Marcelli, tranne nell'ultimo brano, come vedremo, sono usate insieme, è sulle parole Domine Fili Unigenite e poi Jesu Christe, che sono ovviamente le parole più identificative del testo. Improvvisamente qui le voci sono... e poi Jesu Christe... In questo punto Palestrina usa tutte le voci, ma vi faccio sentire come è articolato il testo. Il Gloria quindi comincia Et in terra pax, e qui abbiamo solo quattro voci. Queste quattro voci sono il soprano, il contralto, il secondo tenore e il secondo basso. Poi la frase successiva, Bone voluntatis, rispondono quattro voci ma in una combinazione diversa. Soprano, contralto, primo tenore e primo basso. Laudamus te sono le quattro voci del primo intervento. E poi il Benedicimus, il secondo intervento, quindi con il primo tenore e il primo basso. Capite in che modo lo spazio sonoro viene articolato, queste alternanze interne al coro. Poi Adoramus te saranno solo tre voci, e in questo caso sono voci gravi, primo e secondo tenore e il secondo basso. Glorificamus invece abbiamo soprano, contralto, primo tenore, primo basso. Gratias agimus, forse si è sentito nell'esecuzione, diventano cinque voci, il tessuto si espande, e poi propter magnam gloriam sono solo tre voci, un soprano, un tenore, un basso. Domine Deus Rex, quattro voci. Deus Pater Omnipotens, tre voci, e poi arriviamo al tutti, Domine Fili. Berlioz, per esempio, diceva che questa musica sembrava semplicemente un cumulo di accordi, di triadi semplici, senza alcun senso, senza alcun arte, e che chiunque sarebbe stato capace. Può darsi che lui abbia sentito un'esecuzione non troppo accurata, ma senza dubbio un'esecuzione che prima di tutto mette in evidenza questa meravigliosa varietà ritmica, perché ogni frase appunto comincia, scava il ritmo del testo, e soprattutto c'è questa continua alternanza fra le varie sezioni del coro, che crea quindi la sensazione di una scultura, come se nella pietra, che è l'insieme delle possibilità sonore del coro, si scavassero continuamente dei rilievi, delle ombre, degli effetti di luce completamente differenti. Già che ci siamo, sentiamo anche l'inizio del Credo, che funziona nello stesso identico modo, e guarda caso, anche qui sono varie combinazioni vocali che si alternano, e per sentire tutto il coro, tutte le sei voci, dovremo aspettare le parole per quem omnia facta sunt, e poi di nuovo il momento veramente fondamentale del Credo, et incarnatus est de Spiritu Sancto, esattamente ciò che i protestanti contestavano. Sentiamo quindi l'inizio del Credo. Ecco il coro. Quattro voci qui. Altra combinazione. Cinque voci. Tre voci. Quattro voci. Altra combinazione. Tre voci. Cinque voci. Cambia ancora. Ancora. Tutte due combinazioni che si alternano. Qui sono tre. quattro voci genitum. Attenzione, perquem omnia, eccolo. E queste erano tutte e sei le voci, adesso sono tre. Quattro. Tre. Sentite, descendit. Ed ecco l'Incarnatus a sei voci. Questo, avete sentito il punto centrale del credo, et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est, cioè il punto teologicamente sostanziale. Avete sentito come viene separato da Palestrina questa scrittura molto più lenta, molto più solenne, a sei voci. Un'altra cosa che volevo farvi notare è questi leggeri madrigalismi che hanno una lunga storia nella messa in musica del testo della messa, Descendit de Celis, dove la voce fa... con le voci che letteralmente scendono, e poi dopo invece più avanti nel testo del credo c'è et ascendit, e lì naturalmente le voci molto spesso salgono. Questa è una pratica che ha origini molto più antiche rispetto a Palestrina, questo dipingere attraverso la musica il senso di alcune parole, e che continuerà. L'esempio forse più impressionante di pittura sonora in un credo di una messa è la Missa Solemnis di Beethoven, dove quasi ogni parola del testo riceve un'immagine musicale. Bene, vi dicevo, quindi il gloria, il credo di questa messa, che secondo l'agenda avrebbe salvato la musica sacra dall'abolizione, mostrano queste caratteristiche stilistiche, questa attenzione alla perfetta intelligibilità del testo. Sicuramente avete colto quasi tutte le parole del testo. Le altre sezioni della messa invece mostrano uno stile più libero. Possiamo sentire anche direttamente l'inizio del Kyrie, sentirete che lo stile è invece uno stile imitativo, che assomiglia allo stile di Gioschena, allo stile dei fiamminghi. Soltanto per farvi sentire l'inizio, avete colto anche questa curiosa... che sembra? Assomiglia molto all'inizio della melodia dell'Homme Armé, che, come vi ho detto, Palestrina aveva messo in musica addirittura due volte. Comunque, ecco, qui lo stile è uno stile... molto più evidentemente polifonico e imitativo, assomiglia molto allo stile di Josquin des Prez, che Palestrina conosceva perfettamente. Vi ho detto quanto Josquin era famoso la settimana scorsa e che ammirava. Naturalmente Josquin aveva lavorato anche a Roma, come abbiamo detto, e come succede, guarda caso, anche nella messa L'Homme Armé, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, il punto di questa Missa Pape Marcelli più complesso dal punto di vista contrappuntistico è l'ultimo Agnus Dei. In questo caso gli Agnus Dei non sono tre come in Josquin, sono due volte Miserere, il terzo è il Dona Nobis Pacem, che era una sorta di luogo classico per gli artifici contrappuntistici. È proprio la liberazione, il momento in cui la musica si alza, si solleva. Dona Nobis Pacem ed è l'ultimo pezzo musicale della messa, dell'ordinarium della messa, che un compositore componeva, quindi naturalmente c'era questa tentazione ai compositori di abbandonarsi qui a un piacere maggiore della complessità contrappuntistica. In questo caso Palestrina aumenta le voci, in Josquin la messa in gran parte era a quattro voci, l'Agnus terzo sei voci, la Missa Pape Marcelli è scritta a sei voci, l'Agnus secondo, l'ultimo Agnus Dei, è a sette voci, e queste sette voci, quattro sono libere, e tre, che sono il secondo soprano, il secondo contralto e il basso, sono invece in canone fra loro, il che vuol dire che il basso fin dall'inizio canta. Ancora una volta sembra l'Homme Armé. Risponde il contralto. E il secondo soprano. Quindi questo è un canone tecnicamente che va alla quinta superiore con le voci che si inseguono. L'effetto, queste tre voci in canone unite alle altre che continuano a elaborare frammenti polifonici, naturalmente non è per niente né rigoroso né arido, ma invece è una luminosità, una ariosità assolutamente meravigliosa. Ascoltiamo almeno l'inizio di questo secondo Agnus della Missa Pape Marcelli di Palestrina, e con questo ascolto io vi saluto, vi do appuntamento alla puntata di domani, dove parleremo dell'altro grandissimo musicista di questo periodo, Orlando di Lasso. Buona giornata da Giovanni Bietti. Thank you. Radio 3 Lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare musiche di Giovanni Pierluigi da Palestrina dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.